prova tecnica di trasmissione fino alle 22.30, allorché poi ci sarà 25 o'clock. Per quanto riguarda le comunicazioni mediante posta elettronica, ondarossa@ondarossa.info, sul sito della radio si possono trovare le varie modalità di adesione alla nostra campagna di crowdfunding per il nostro radioabbonamento, 30 euro per 1000 ascoltatori, un'iniziativa che porteremo avanti fino a fine settembre. Ricordo anche l'iniziativa per il sostegno di Radio Onda Rossa, che si terrà il 16 luglio alla Forte Prenestino. Avremo la sonorizzazione di Begotten ad opera di Orlok 22, progetto Dark Ambient collaterale ad Art Decore. E poi live e visuals di H501L. Musica macchina, un pezzo di storia della scena elettronica. Il tutto a sostegno di Radio Onda Rossa a Forte Prenestino il 16 luglio. Venerdì 16 luglio. Salutiamo Maya e Nicolò Locci in Sardegna, Alberto Clipper, Cecilia Miradoli di Pindar. Des De Carlo from Boston, Marco qui a Roma, Laura Spirit Crusher, Cristiano Bocci di Chemical Resistance, Tabula Rasa, il buon Daniele Ciullini. Il medico della peste, Francesco Cornello, in quel di Bergamo. E poi saluto anche Flavio Derbecante e Arianna Degni Lombardo di Noise Cluster. Ultimo passaggio per questa sera riguardante il primo lavoro di Schloss Tegal, Music from Madness, recuperato in maniera tattica dalla 8 Tower Records, entità parallela della Unexpressed Sounds di Raffaele Pezzella. In origine questo album uscì nel lontano 1991, è stato rimasterizzato ed è stata riordinata la tracklist, per cui questa sera ci ascoltiamo le ultime due tracce, Watch Me Flop Around e The Red Skull. a tratti astratto, in altri frangenti più cupo e sinistro. Trattasi di Music from Madness, l'esordio ormai lontano di Schlostegal, targato 1991 e ristampato e reeditato in maniera provvidenziale dalla 8 Tower di Raffaele Pezzella. Richard Schneider e Mark Bartsch, un duo di origine americana. Che però prendeva il nome da un castello che esisteva a Berlino durante la Seconda Guerra Mondiale, dove venivano ricoverati militari trattati, o meglio, si tentava di trattare i loro disturbi psichiatrici attraverso l'arte e la musica. Da qui il nome Schloss Tegal, Schloss è castello, Tegal è proprio il nome di questo, diciamo, monumento, ormai monumento. Bene, dunque dagli Stati Uniti invece veniamo molto molto più vicino, esattamente proprio qui a Roma, e lo facciamo tramite Amptek. Anche per lui abbiamo ritirato fuori il lontano esordio del 1998 che si chiamava Microcosmos. Anche qui convive perfettamente un'anima più dilatata e un'altra più vicina a certe sollecitazioni elettronico-industriali. Noi ci ascoltiamo una gran parte della lunga Life on Mars. Le avvolgenti ragnatele psichedeliche e kraut rock ideate da Amtec, da questo Microcosmos, vecchio lavoro del 1998. Una lunga traccia che ci siamo ascoltati nella sua gran parte. Esattamente Life on Mars. Intanto vado a salutare Wurnus Aylin, Like Awake qui a Roma, Cecilia Miradoli di Pindar, Isa Etual, Mariano a Berlino. Lucia Cagliazza in arte Lupsi, fedelissima anche lei, nonché ottima musicista. Torniamo da Raffaele Pezzella e la sua Anesplay Sounds Group. Ed il motivo è molto semplice, perché andremo da qui a questo punto fino alla fine del mese, fino alla fine proprio del ciclo invernale estivo di prove tecniche di trasmissione, andremo un po' a visitare questa misteriosissima scena proveniente dalla Cina. Si chiama infatti Chinese Music Survey, Anthology of Experimental Music from China, il classico titolo che è un vero e proprio manifesto di intenti, ovviamente, per cui ci sono una serie di musicisti avvolti veramente nel mistero, ma che il buon Pezzella insieme a Adal e Bangjin sono riusciti a pescare, a scovare chissà dove e mettere e fermare qui su questo CD. Il primo artista che ci andremo ad ascoltare si chiama Chu Yang Yao e ci ascolteremo Hidden Meadows. Il secondo è Liu Yivei con Energy of Brick. Oh, In quanto compilation vivremo in prospettiva momenti diversi, momenti evanescenti e altri più sferzanti, come deve essere proprio una compilation, soprattutto se rivolta a un contesto culturale così complesso e diversificato qual è la Cina. E questa sera è stato il turno di Qiu Yang Yao e Li Yiwei. Il Chinese Music Survey, l'antologia della musica sperimentale proveniente dalla Cina, come al solito curata e stampata da Raffaele Pezzella. Salutiamo Tabula Rasa, Enrico Cerrato e alle 21.36 andiamo anche adesso su qualcosa di più incisivo, appartenente invece a un progetto americano dal nome Hyde. La loro ultima uscita si chiama Interior Terror e coerentemente con il titolo le atmosfere che si incontrano in questo album hanno una tensione non indifferente, ma è come questa proprio la tradizione peculiare proprio di Hyde, questo duo proveniente dagli Stati Uniti. Esce per la Dice Records, etichetta decisamente in auge da quelle parti, e questa sera ci ascoltiamo Daddy Issues e poi la quinta traccia dal nome Fear. Anxiety, fear, and depression. You can see that in his face, the way he walks, his weakened voice, his lack of appetite. He always enjoyed certain foods and is a very good cook himself. Now he barely consumes any food and eats only to exist. These verdicts have broken and shattered him and our family in so many ways. What I know as his father is that incarceration is not the appropriate punishment for him. He can do so many positive things to contribute to society and is totally committed to educating others about the dangers of alcohol consumption and promiscuity. The fact that he now has to register as a sexual offender for the rest of his life forever alters where he can live, visit, work, and how he will be able to interact with others. His life will never be the one that he dreamed about or worked so hard to achieve. That is a steep price to pay for 20 seconds of action. Una delle migliori uscite di questo inizio 2021, Interior Terror, progetto veramente tra i più validi e interessanti degli ultimi anni. Quarto lavoro per loro, E sono un duo al femminile e al maschile. C'è Heather Gable alla voce, che ricorda in parte anche Lydia Lunch, e poi le tastiere, tutti i vari trucchetti elettronici ideati da Celt Shear. Saluto anche Massimo Oders Mascheroni di Oders. Laura Spirit Crusher, buonasera a lei. Le ultime due cose che ho mandato sono delle ultimissime uscite. Adesso invece ritorniamo indietro nel tempo e andiamo nella vecchia scuola industriale italiana. Sentite intanto quanto pulsa, e pulsa bene, questo Hyde. Allora, Final Alternative Relation, questa interessante realtà degli anni Ottanta, la vecchia scuola industriale, geniale devo dire, niente da invidiare a quelle, diciamo, anglosassoni. Questo è un lavoro del 1985 da consumarsi con grazia, e anche per questa sera tre passaggi. Charm, da consumarsi con grazia, quindi la title track, e Gesti rapiti.